Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. E qui è dove avviene la magia. Oh, guarda questi vestiti! Non mi avevi mai portato qua su prima! Completo tennis, missione su Marte! Guarda qui, campione di Kung Fu, eroe del campus, con gagliardetti abbinati, eh? Figlio dei fiori! Oh, Ken! Nessuno apprezza i vestiti qui, Barbie. Nessuno. Ken, ti va di sfilare per me con qualche completo? Solo un paio. Avevo capito subito questa mattina che sarebbe stato per voi un momento difficile. O appassionate ascoltatrici che state facendo gara per mandarmi le vostre foto assieme alla vostra Barbie. Ne abbiamo già selezionate 75 che saranno la notte del 17 febbraio al MUDEC, Museo delle Culture a Milano, a partecipare alla notte delle Barbie viventi. Ma molte altre stanno mandando, come abbiamo chiesto noi, le loro foto assieme a una Barbie. Per capire quale sia stato il moto del reo tempo che ha staccato in maniera così atroce quel modello di femmina che avete tenuto tra le vostre manine di bambine e quello che oggi siete voi guardandovi allo specchio. E questo noi faremo e questo noi volevamo fare, ma questa mattina arriva la notizia, notizia che empie in maniera devastante le pagine di tutti i giornali. Ho davanti i tre principali quotidiani italiani, tutti e tre hanno una pagina intera destinata alla rivoluzione Barbie. Noi che stavamo lì a pensare, a lambiccarci, a vedere questa Barbie tutta carina, dalle sue forme impossibili, con le sue gambe a stecco, con la sua passera piallata, con le sue tette dritte, marmoree e plastiformi, con il suo collo, con il suo sguardo ebete, con le sue manine sempre immobili, dicendo c'è solo quello, oggi siamo diverse, siamo donne, siamo cresciute, vediamo i segni del tempo che è passato sulle nostre generose carni. Invece no, la Mattel, sapendo che facevamo questo raduno, ci ha spiazzato completamente e ha messo sul mercato da oggi tre modelli nuovi di Barbie. Le Barbie che escono da quel modello standard che ormai va da 57 anni e sono tre Barbie conformate in maniera diversa, diversamente conformate. C'è la Barbie bassa, Barbie nana tutta tana, c'è la Barbie alta, la spilungona, la stangona e la Barbie chiatta, quella con... chiamarla Barbie con abbondanza di forme è esagerato, è una piacevole signora come sono tutte le colleghe che ci circondano, normale, con giustamente un segno di fianco ben accennato. Noi fedeli al vecchio motto donna senza culo, alpino senza mulo, votiamo per questa Barbie. Beh, voi invece come la mettete? Dovete completamente rifare tutte le vostre foto, scompaginare tutte le vostre certezze. 800 24 0024. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al MUDEC di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà? Non lo... È stato un momento più profondo del coming out anche delle nostre colleghe. La collega Schepisi poco fa mi ha confessato che lei aveva una bambola skipper, che basta tirare le braccia indietro, crescevano le tette e gli si rizzavano i piedi, cioè gli hanno i piedi nella forma per infilargli le scarpe col tacco. Probabilmente un modello quasi inedito che veniva venduto sotto banco, che lei ebbe da piccola e dal quale fu traumatizzata per tutta la sua vita professionale, probabilmente. La skipper si mandavano indietro le braccia, erano fuori delle tette a punta e si rizzavano i piedi. Un modello fantastico. L'avete mai avuto voi un modello del genere? Avete avuto una bambola del genere? Sì, perché probabilmente ci sono dei modelli che venivano venduti in tiratura limitatissima e soltanto pochissime fortunate ragazze avevano. Sì, perché oggi bisogna riflettere su questa novità, sulla Barbie conformata diversamente. La Mattel ha messo da questa mattina sul mercato questi nuovi modelli di Barbie, che dovrebbe avere un grande successo. Ma qual è la discrimine attraverso cui una madre regala alla figlia una Barbie grassa è una bambina un po' paffutella e gli dici, siccome tu sei grassoccia, ti regalo la Barbie grassa. Oppure la bambina piccolina che non cresce, si sente in difetto, mamma, perché non posso giocare a pallacanestro? Mamma, perché tutte le mie compagne mi chiamano Nana? Mamma, perché sono piccola? E la mamma, che probabilmente anche lei è piccola, c'è un papà piccolo, dice, bambina mia, pazienza, crescerai così, ti regalo la Bambi piccolina, così è uguale a te, tu sei contenta. E invece la spilungona, quella complessata, che magari diventerà una bellissima modella, però finché a scuola la prendono tutti in giro, perché nei banchi la mettono all'ultimo banco, perché sennò copre la visuale a quella che gli sta davanti, e si sente regalare anche lei una Barbie spilungona, che è completamente fuori misura rispetto alla casa di Barbie. Dentro la casa di Barbie non c'entra la Barbie spilungona, monta sul cavallino di Barbie, è ridicola, sembra che cavalchi un coniglio, che ne so, la mette nella piscina di Barbie e gli c'entrano soltanto i piedi. Come riuscirete, secondo voi, a far giocare le vostre bambine con i tre modelli di Barbie? Questa è una cosa che mi domando. Poi, quante di voi ancora hanno ancora desiderio di partecipare alla grande serata, alla notte delle Barbie viventi? Chiamate all'800240024. Continuate a raccontare quelli che sono gli episodi che legano la vostra vita fanciullesca alla bambola Barbie. E soprattutto fatemi sapere come vi porrete di fronte a questa grande novità. Perché un problema che immediatamente io posso percepire è che finché le Barbie rimanevano negli ultimi quasi 60 anni in una misura standard, i vestitini Barbie, come li comperavi, erano quelli. Li potevi mettere a qualunque Barbie del regno perché erano tutte uguali. Quindi anche un vestitino vecchio di Barbie poteva essere messo a una Barbie nuova. Un vestito nuovo di Barbie poteva essere indossato a tutte le Barbie che avevate dentro il vostro cassettone. E adesso come la mettete? Barbie dovrà avere almeno quattro taglie. La normale, normodotata, la bassa, l'alta e la grassa. Quindi dovrete comprare un set di quattro vestiti diversi per ogni modello. E questo aumenterà sicuramente il vostro impegno economico nei confronti fronte le Barbie. 800240024, raccontatemi la vostra vita attraverso il riflesso che ne vedete nella vostra immarcescibile Barbie. Ma dico io, volete fare una Barbie più reale? Fate una Barbie disoccupata, fate una Barbie che la vivete in semaforo, eccezionale, una Barbie contrabbandiere, Barbie trans, o meglio ancora una Barbie clandestina arrivata col gommone. Cioè fate una cosa reale che le donne possono già capire da bambine, che quando crescono non ce devono rompere i coglioni, che c'è sta pure la Barbie disoccupata, e magari proprio loro sono quelle Barbie, proprio loro sono la Barbie disoccupata, non che crescono col pensiero della Barbie che ha tutto, cioè solo la figlia di Berlusconi si può paragonare a quella Barbie là, il resto siete Barbie disoccupate, cioè state calma, crescete un po' disoccupate. Certo è una bella sfida, inventiamoci nuovi modelli di Barbie rispetto a tutte le attribuzioni, i luoghi comuni che sono stati dati alle donne negli ultimi 70 anni. La Barbie l'utero è mio, me lo gestisco io, la Barbie anorgasmica, la Barbie utero in affitto, non lo so, ci potrebbe essere un'infinità di Barbie. Aspetto delle felici intuizioni da parte vostra, perché rimangono ancora una settantina di posti da assegnare e sarà una serata fantastica. Ho visto fare a capelli delle donne per poter entrare nella lista delle privilegiate, già 70 stanno dentro. Ce ne potranno stare un'altra settantina, forse qualcuna in più, se saremo generosi. 800240024, sorprendetemi. Adele, buongiorno. Sì, buongiorno. Molto interessante questo argomento. Io volevo dire, noi siamo cresciuta con la Barbie, dove la Barbie diventava mamma, manager, infermiera. Le facevamo fare i giochi di ruolo. Voglio dire, era una bambola filiforme, bionda, bellissima. Oggi sono una donna con il fianco morbido. Oggi, scusi, no, fermala, Adele. Oggi ha la sua Barbie. La Barbie grassoccia è quella che le serve a lei. Ma No, assolutamente. Perché togliere il sogno? Perché togliere il sogno alle bambine di avere una Barbie filiforme e di dire un domani potrei diventare così. Poi la vita ti porta a crescere, diventi altro e ti accetti per quello che sei diventata poi. Diversa da quella che era la tua Barbie. Secondo me è togliere comunque il sogno alle bambine di avere un futuro bionda, filiforme e quant'altro, insomma. Adele, dunque, ci sono vari motivi. Qualcuno dice che la Barbie, in quella maniera, essendo irreale, era una Barbie totalmente fuori da ogni possibilità di assomigliarle, anzi poteva indurre le bambine a non mangiare, a entrare in un circolo di problemi alimentari, diventare anoressiche per essere come Barbie. Esistono un paio di famose modelle la cui follia infinita ha fatto sì che chirurgicamente si fossero modificate il corpo per assomigliare a Barbie, e sono inguardabili perché le proporzioni di Barbie sono totalmente irreali. Finché l'abbiamo in mano come pupattola di plastica possiamo anche sorridere, ma vedere una donna conformata come Barbie è qualcosa di alieno rispetto ai nostri modelli estetici correnti, perché sono altrettanto aliene quelle che oggi vengono considerate bellissime. L'avessimo fatte vedere ai nostri bisnonni, avremmo detto: ma cosa c'hanno queste donne? Chi l'ha presa a pugni in faccia? Chi ha loro gonfiato gli zigomi delle labbra? Rispetto al suo diritto di poter sognare, sono perfettamente d'accordo. Lei ha ragione. Comunque, occorre un modello su cui sognare. Certo, noi maschietti su Ken avevamo poco da sognare. Era la negazione di ogni tripudio maschile, Ken. Sì, bello, carino, ma eravamo così terrificati da quelle mutande di plastica presso fuse, sotto cui si intuiva non ci fosse veramente nulla. Achille, buongiorno. Salve. Guardi, il mio intervento non si discosta molto da quello che ha fatto la signora. Anch'io credo che il fatto di avere un modello con cui confrontarsi, per quanto irraggiungibile, irreale, che però è qualcosa di difficile da raggiungere. Noi avevamo i supereroi, noi siamo cresciuti più o meno tutti con supereroi, esatto, o qualcosa del genere. Infatti quello che pensavo io è che anche in un certo qual modo per i maschietti esiste qualcosa del genere, perché tutti quanti noi abbiamo il pupazzetto di Batman o di Superman, che sono super palestrati e magari hanno una forza incredibile, quindi hanno anche quelle forme che anche lì sono praticamente irrealistiche, perché hanno le spalle quattro volte larghe i fianchi. Però nonostante lei se lo questo, ricorda Big Jim che faceva il muscolo e dava il colpo di karate? Questo penso di essermelo perso. Lei quanti anni ha? Quanti anni ha? Ho 25 anni. La mia generazione è nata con il Big Jim, che era una specie pupattolone, assomigliava a Ken, ma era molto più virile perché era un soldato, quindi aveva tutte le caratteristiche, la tutina mimetica e tutto. Gli si pigiava dietro la schiena, c'era un pulsante, e muoveva il braccio e faceva il karate. Un colpo di karate, sempre quello dava comunque. E si spingeva il braccio, si gonfiava una specie di bicipite sotto lì. È una cosa ridicola. Però quello ci dava l'idea, dopo essere traumatizzati da Ken, in cui nessuno di noi cercava di essere Ken. Ken serviva alle bambine per trovare un pseudo marito per Barbie. Ci buttavamo su Big Jim. Monica, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sente? Sì, benissimo. No, lo chiamavo perché per raccontare la mia esperienza che ho avuto anch'io con la Barbie, avevo 44 anni, quindi qualche anno fa, che c'è stato una sorta di rapporto di amore e odio, perché io sono sempre stata piuttosto cicciottella, soprattutto quando ero piccola, e vedendo la Barbie così perfetta, io appunto in un certo senso la odiavo anche. A volte arrivavo a vendicarmi tagliandole i capelli, oppure pregiandola in un certo senso. E poi mi ricordo che invece a volte pregavo, tra virgolette, il Signore, dicevo: ti prego, fammi diventare così, fa che domani mattina mi svegli. No, per sentirsi meglio, elenchi quali erano, diciamo, le torture che infliggeva la sua Barbie, che odiava perché aveva un fisico rispetto al suo molto più prestante. Cosa le faceva Barbie e cosa pensava mentre infliggeva queste torture alla sua bambola? E le tagliavo i capelli pensando che appunto perdesse la sua bellezza, perché la maggior parte, se non quasi tutte, avevano i capelli lunghi. L'unica cosa che sono riuscita, tra virgolette, ad eguagliare è stata la lunghezza dei capelli, che poi li ho sempre avuti lunghi tutta la vita, li ho tuttora lunghi. Ecco, però appunto era come una sorta di vendetta, anche perché purtroppo a scuola sono sempre stata presa in giro, e quindi era una sorta di sfogo probabilmente questa cosa sulla Barbie. Però lei crescendo, Monica, ha capito che in realtà poi il genere maschile non è che proprio apprezzasse queste sorte di tavole da stiro, quindi il suo essere piacevolmente abbondante l'avrà dato delle gioie nella vita, piuttosto che quello che doveva essere come Barbie e fare una vita difficilissima fatta di diete e di astinenze. Le semicrese, le dico la sincera verità, sono tuttora, ho fatto tutta la vita con l'ago della bilancia su e giù, e questa cosa, anche quando ero, tra virgolette, che mi sta sentivo bene, dentro di me mi sono sempre sentita grassa. Probabilmente è una cosa che rimane. Vabbè, ma non credo sia. Lei ha delle figlie? Sì, due. Che Barbie le ha regalato durante la loro fanciullezza? Io sinceramente non avevo mai regalato di Barbie, le venivano regalate da amici ai compleanni, a parenti, le nonne che gliele regalavano. E sono lì ancora in una scatolone dove ne avevano una marea, io ne avevo due, erano quelle che torturavo, loro ne hanno diverse e le dico sinceramente che vedendole ancora adesso a me le Barbie mi fanno lo stesso effetto. Ma perché non si compra allora quella chiattona, così almeno si consola? Infatti, io l'ho saputo da lei adesso che le... Oggi basta qualsiasi giornale d'Italia, è la notizia del giorno. Fosse scoppiata la terza guerra mondiale non avrebbe avuto tanta evidenza. Quindi lei può andare a comprarsi, la guardi, dice finalmente siamo uguali. E quindi si riconcilierà anche con Barbie. Mi ha regalato un sorriso stamattina perché non lo sapevo. Di vabbè, a me non è costato nulla, è stato un piacere. A tra poco, 800 24 00 24, continuiamo a parlare, a tirare fuori le cose che ci fanno male usando come supporto della nostra memoria la bambola Barbie. Melog, cronache meridiane. La mia esperienza con la Barbie l'ho avuta per la prima volta, avevo 8 anni, per la promozione mia mamma me l'aveva comprata ed era rigidissima, aveva un costumino giallino trasparentino abbastanza che si confondeva col colore della pelle della Barbie e avevo anche pochi vestiti, i miei genitori non avevano tanti soldi a disposizione, quindi mi sono accontentata di avere giocare con una Barbie con dei vestitini recuperati. E poi a 11 anni ne ho avuta una che aveva dei capelli incredibili perché aveva i fili di ferro dentro e quindi potevi fare delle acconciature fantastiche. Le l'ho lavati e si sono arrugginiti i fili di ferro nei capelli della bambola. Questa è l'ascoltatrice, ci ha raccontato la settimana passata la storia della sua Barbie, fili di ferro. Do qualche indicazione di servizio, continuate a mandare i vostri selfie con la vostra bambola Barbie alla casella melog@radio24.it. Stiamo selezionando l'altra tranche di ascoltatrici che parteciperà il 17 febbraio a Milano alla fantastica Notte delle Barbie Viventi al MUDEC, il Museo delle Culture. Mi piace ricevere queste foto perché le guardo io a tempo reale, le guardo, le scorro e vedo la passione attraverso cui le ascoltatrici stanno a questo gioco. Rifarsi vedere nuovamente loro adulte con la Barbie di quando erano bambine. Quello che allora era un giocattolo oggi diventa una sorta di ritratto di Dorian Gray all'inverso, in cui viene mostrata tutta l'attesa, la velleità, la speranza, l'illusione di un modello femminile, se vogliamo detestabile, che comunque veniva annoverato nelle categorie del bello, al quale loro possono molte volte non essersi adeguato o averlo superato. Vedo ascoltatrici bellissime, dire ma guarda quanto sono diventate più belle crescendo rispetto a quello che era Barbie. Rispetto poi alla nuova scelta della Mattel di fare le tre bambole con morfologie corporee adeguate comunque a una varietà rispetto alla monocrazia della Barbie spilungona, della Barbie che conosciamo tutti, la Barbie formosa, la Barbie bassa, la Barbie altissima. Ci sono dei commenti abbastanza negativi. Giusy Cascio su Donna Moderna dice che lei non è d'accordo, le bambole servono per sognare. In maniera ancora più intransigente lo esprime Melissa Panarello, la famosa Melissa P, l'autrice di un romanzo che scandalizzò sulle precocità sessuali in un adolescente. Dice che Barbie deve rimanere un modello inarrivabile, se volete sbagliato ma raggiungibile. Se Barbie rimane quella che è, una bambola inutile, assessuata, con le gambe lunghissime, le zinne enormi, Barbie non fa alcun danno, fa la bambola. Le bambine imparano precocemente la differenza fra una bambola e le donne vere, e se qualcuno si dà la pena di spiegarglielo. Allora, se la mettete così dovete cambiare tutto l'immaginario infantile. E cartoni animati disegnate la cellulite, le smagliature, Mulan con le rughe, la sirenetta con l'acne, Biancaneve in sindrome premestruale. Ma capire voi che la già vita è una merda e se non posso nemmeno più sognare con i giochi, cosa resta? Di Barbie serve per sognare. Le Barbie fatte come sono fatte le bambine non le fanno più sognare. Valentina, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Sì, effettivamente mi trovo d'accordo con queste ultime osservazioni, per il semplice fatto che io sono sempre stata una bambina molto alta, tant'è che poi alla fine ho raggiunto il 1,93 m. E quando ero piccola, se mi avessero regalato una Barbie spilungona che quindi diciamo rivelasse, mettesse sotto gli occhi di tutti il suo, quello che per allora per lei era un disagio. Ma no, non è che fosse un disagio, però era come sottolineare quello che forse per gli altri era un disagio, non lo so, era mettere in evidenza una mia caratteristica rispetto alla normalità. E non poteva nemmeno scambiarsi i vestiti con le altre. Tra l'altro su questo io avevo sempre un rapporto conflittuale con la Barbie, perché me le regalavano, io le denudavo, le lasciavo lì e giocavo poi con i vestiti, mi piaceva di più il tocco del vestito. Tra l'altro mi scusi un attimo, lei ne sa più di me, Valentina, la Barbie spilungona come la mette con Ken? No! Cosa fa Ken? Ultimamente in quel caso rispecchierebbe la realtà, perché alla fine ci si deve accontentare. Quindi... Eh no, perché Ken gli arriverebbe all'ombelico. Esatto. Vabbè, che tanto più di quello non poteva fare, poraccio, che doveva fare? Con la sua impossibilità di c'era delle mutande sigillate lì, non c'era nulla da fare, poverino. Vabbè, questo però mi conferma il fatto che tutte avreste volete continuare a avere una bambola per sognare. Deprecabile quanto volete, il modello di Barbie è stata indicata come l'antitesi di ogni evoluzione femminile dal punto di vista della consapevolezza, però volete una bambola per sognare. Mandi la foto però, Valentina, con la sua Barbie, mi piace. Volentieri. Sì, ma a melog@radio24.it sarà dei nostri, almeno c'è una spilungona, potremo metterla vicino alle Barbie e vedere cosa viene fuori di cortocircuito. Leonardo, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, salve. Dunque, no niente, io mi leggo un po' a quello che diceva prima, cioè un attimo fa, che la bambola serve per sognare. E credo che definirla ancora di più avvicinata alla realtà sia veramente inutile, spiacevole per chi ci gioca e anche un po' deleterio, cioè nel senso già il modello Barbie non è un granché. Però da 60 anni è il giocattolo che hanno avuto per mano. Qualcuno avrà fatto un'idea, avrà avuto un'idea felice dal punto di vista proprio del marketing, onestamente. Marketing, sì. Però io credo, ora farò un discorso un po' più serioso, cioè sì, credo sì. Che come si nell'educazione steineriana vengono usate delle bambole che addirittura non hanno dipinto il volto, che a vederle sembrano inquietanti, ma danno uno spazio alla fantasia e al gioco immenso, e sono delle bambole e permettono il gioco. Più si definisce, è vero che come io sono una figlia che ha un sacco di Barbie e lei ci si diverte un sacco, però più provi a sfregiarle con l'acido, a fare Barbie sfregiata con l'acido, vediamo come sua figlia è contenta. Sì, effettivamente potrebbe non essere non è bello. No, sì, no, ma poi guardi, ci sono, ognuno dei figli li educa come meglio vuole, è chiaro. Queste bambine crescono con la Barbie senza volto, che sviluppano la fantasia a disegnargli il volto sopra. Poi se vanno in una scuola o se vanno per strada o se vanno a una festa, si confrontano con altre bambine che hanno avuto la Barbie uguale alle loro nonne e alle loro mamme. Il mondo è un po' diversificato, si crea una nicchia di bambini creativi, intelligenti, educati con tutte le cure. Poi dobbiamo anche tener conto che storanno sempre un po' male insieme agli altri bambini. Il bello è che si passi tutti attraverso la stessa esperienza, poi nasca la volontà di differenziarsi. Maddalena, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Bologna e quindi diciamo già il genere bolognese è un po' diverso dalla Barbie. La Barbie bolognese come dovrebbe essere? Beh, secondo me sono un po' tondina, ci vuole. Ma se la chiamasse la Mattel, diciamo guardi, lanciamo ancora dei nuovi modelli ancora più mirati, queste tre funzionano. La Barbie bolognese quali caratteristiche dovrebbe avere? Se lei dovesse proprio pensare. Beh, è bella prosperosa, quella sicuramente, bella prosperosa, quindi... No, comunque poi... io sono una collezionista di Barbie, quindi io non vedo l'ora che escono questi nuovi modelli per potermeli accaparare, ecco, quindi sono un po' controcorrente. Quindi ancora non ci ha mandato una foto lei che è collezionista? No, perché io non sono Barbie, Ma che lei non è Barbie è normale, ma guardi, ci hanno mandato delle foto donne di tutti i tipi, nessuna si vergogna, anzi, c'è la fierezza... No, diciamo, io sono più sulla tipo Mortisia che non Barbie, ecco, sono un po'... Diciamo, cioè una faccia da menagrama vorrebbe dire, no? Diciamo, sono molto bianca e molto nera di capelli, ecco. Beh, bianca e nera perché, scusi, potrebbe piacere il genere a qualcuno. Beh, sì, infatti, effettivamente piace a qualcuno. E allora si faccia una bella foto con un po' di Barbie e venga a trovarci a Milano, visto Bologna, Milano non è lontano, la mandi a melog@radio24.it. Aspetto la foto della collezionista bianca come Biancaneve o capelli neri come Biancaneve. Si mette anche rossetto rosso, così è proprio Biancaneve sputata. Vanna, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo dire che io, la mia figlia hanno sempre giocato con Barbie e la mia figlia più piccola ha continuato a somigliarle a Barbie. Non è così filiforme, però è bella come Barbie. Ma per farla stare in piedi cosa fa? Gli mette un supporto dietro, perché Barbie non sta in piedi. No, è molto attiva, è molto... E quindi non somiglia a Barbie, cioè c'ha capelli lunghi e biondi. Sì, c'ha capelli lunghi e biondi, ha la vita sottile, e somiglia molto a Barbie, glielo dicono tutti. E lei è molto contenta di questa cosa, per mantenere questa vita sottile sua figlia mangia regolarmente, sì, spero. È una persona attenta. Quanti anni ha sua figlia? 34. Perché non ci fa mandare una foto della sua figlia con la Barbie? Visto se finalmente... riesco a convincerla, farò questo. Perché ne avrà di Barbie, penso, no? Sì, di Barbie sì, semmai se riesco a convincere lei che... Se no, se le faccia lei, fate la foto di tre generazioni, lei, sua figlia, sì, che è la sua Barbie, e la Barbie di sua figlia, quindi fate tre generazioni di Barbie. Forse è meglio se faccio fare a loro due, via, io sono già ormai datata. Cioè lei dice ormai è putrefatta, ma non ci importa. No, non sono putrefatta, no. E allora perché dice no, scusi? Vabbè, perché così spazio ai giovani. Cioè ha appeso il perizoma al chiodo? No. Allora faccia la foto, ce la mandi. Io ho la sua età, l'età di lei. Pensi che complimento mi sta facendo. Io non mi sento ancora, diciamo, da mettere nella raccolta differenziata. No, però nemmeno da partecipare a... Se ci sono io ci può essere anche lei, scusi. Va bene, allora manderemo... Mandi la foto. Va bene. Ci fa venire tutte e due alla... Ci proverò nei limiti delle mie possibilità. Comunque, mandi le foto. Roberto, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Vorrei essere più provocatore di lei, se ci riesco. Allora, questa Barbie grassa, magra, lunga e stretta è chiaramente un antistereotipo, mentre Barbie era uno stereotipo. È solo un'operazione di marketing. È chiaro, tale, secondo me, va vissuta. Allora, rilanciando la palla, essendo provocatori, perché non pensare, visto che la bambola è un grande educatore per i bambini anche, perché non pensare a una Barbie in carrozzella? L'hanno già fatta, guardi, l'hanno già fatta. La Mattella fece una cosa come, mi sembra, 20 anni fa, fece la Barbie sulla sedia a rotelle. Ci fu un problema, perché dicevano che non entrava, la casa della Barbie non aveva, naturalmente, non era accessibile, e la Barbie con la sedia a rotelle non entrava nella casa della Barbie. Io però mi ricordo allora, facevo dei servizi per il TG1, per TV7, dimostrai il contrario, trovai questa Barbie sulla carrozzina che in Italia non si trovava, feci girare ai colleghi, allora lavoravo alla RAI, della RAI di New York, un video in cui si vedeva questo, lo trovo ancora su YouTube, in cui questa Barbie in realtà con la carrozzina entrava e poteva muoversi nella casetta di Barbie. Quindi ci avevano già pensato, la Barbie politicamente corretta, ma un giocattolo educa quando va oltre la volontà di fare un giocattolo educativo. Come diceva giustamente, penso, la Panarello, Barbie educa proprio che la gente capisca una bambola, che quella è l'irrealtà. È fantastico confondersi e contaminarsi con l'irrealtà, ma la vita è un'altra cosa. Grazie, a tra poco. Melog, cronache meridiane. A me hanno regalato una Barbie scozzese con i capelli rossi lunghi e gli occhi verdi, con un kilt. Era più che altro l'idea che tutti ce l'avevano l'altra, l'altra era banale perché ce l'avevano tutti, ti regalo una cosa più bella, è più bella l'originalità della Barbie scozzese. Tutti me la guardavano con grande sufficienza, io l'ho odiata moltissimo. Stiamo ricordandovi la possibilità di partecipare alla grande notte delle Barbie viventi il 17 febbraio a Milano al MUDEC, Museo delle Culture. Per partecipare però bisogna mandare una propria foto assieme alla bambola Barbie. Non mandate foto con bambini, gentilmente, se no non le possiamo pubblicare. Poi onestamente, una serata si chiama La Grande Notte delle Barbie Viventi, non è una serata da bambini, una serata da adulti. Avremo un incontro franco, disteso, ma totalmente spassionato e privo di censure, con le ascoltatrici che verranno lì, molte vestite da Barbie, stanno già preparando l'outfit, molte con la Barbie in mano, anzi tutte con la Barbie in mano, se no non entrano. Non è proprio il clima da bambini. Una serata inizia alle 19:30 e finisce a notte inoltrata, e finirà naturalmente nell'ubriachezza molesta, non credo che i bambini sia il caso di portarceli, quindi venite da soli. Ecco, stiamo in qualche maniera cercando di convincervi a venire il più possibile, perché ci piace che sia una cosa piena di gente. Stiamo ragionando oggi invece sulla modificazione che c'è stata nel modello Barbie. Sono state messe sul mercato altre Barbie diversamente costituite, e questo sta suscitando interesse e discussione fra le ascoltatrici. Flavia, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Buongiorno. Sì, io volevo dire che non ho mai avuto personalmente la Barbie femmina, ma anzi, quando ero bambina avevo ricevuto dei soldi da mio nonno in regalo e mi ero comprata il Kent. No, scusi, il Big Jim. Ah, il Big Jim è un'altra cosa ancora. Sarebbe, perché il Kent, credo di ricordare, era quello un po' più giovane. Il Ken era, diciamo, era il marito asessuato di Barbie. Poi a metà degli anni 70 la Mattel mise sul mercato Big Jim, che era una specie di Indiana Jones, robusto, super virile. Addirittura il pulsante sulla schiena che premeva e tirava sul braccio, faceva una mossa. La mossa di karate, il colpo di karate, sì. E gonfiava però, il muscolo. A parte questo, il bicipite. Secondo me è una buona idea, che cioè, la trovo una cosa positiva che ci siano Barbie di fattezze diverse, perché la Barbie classica io infatti non l'ho mai voluta. Ma lei che giochi faceva con Big Jim? No, perché questa mi interessa, antropologicamente è molto interessante la sua... Lei aveva Big Jim, che era un gioco da maschi, sì, avevo nell'idea. Più avevo altri personaggi vari, bestie, animali, cose così. Sì, quindi... Big Jim aveva sempre delle avventure, c'era un nemico, sì. C'era un signore pelato con un braccio metallico, poi faceva delle avventure che allora venivano considerate come avventure tipicamente maschili, però è divertente che una donna giocasse con Big Jim. Sì, cioè, avevo quello più tanti altri oggetti, per cui mi inventavo i giochi. E secondo me il fatto che ci sono più Barbie dà la possibilità di inventare un gioco, cioè anziché avere una bambola, che è un modello stereotipato, che a me personalmente non mi è mai piaciuto, se uno ha più bambole diverse, si inventa il personaggio, è come avere tante amiche. Sì, quindi sono diverse, come un gruppo di amiche, non esatto. Sono tutte uguali. Esatto. Ma sa che però... il gioco della Barbie era proprio il fatto che erano tutte uguali, che cambiava i vestiti una l'altra, erano intercambiabili, cambiavano soltanto il taglio dei capelli e gli accessori, c'erano quelle più costose con accessori più importanti, quelli senza accessori. Diciamo è un po' difficile entrare nell'idea, perché Barbie era un insieme fatto di un colpo d'occhio che era comunque sempre uguale, ma ci abitueremo anche a questo. Lucetta, buongiorno. Buongiorno. Sì, no, io riflettevo e dicevo poi effettivamente il fisico che era poi uguale, no? Perché in realtà il viso era abbastanza diverso, perché c'era anche quella di colore, insomma. Ma il colore cambiava, ma lo stampo della faccia mi sa che era sempre uguale. Lo stampo, sì, lo stampo, e poi soprattutto fisicamente erano assolutamente... Sì, che era reale, cioè una ragazza africana con il viso esattamente come la Barbie di Manhattan. Sì, sì. No. Però era un po' un modo anche di unificare, no? Come dire, di vedere poi tutto in fondo, poi la bellezza è poi universale di qualunque sia. Questa è una visione forse un po' più ottimistica. No, ma qualcuno pensa. Io sono convinto, se hanno fatto un'operazione così importante e anche costosa, hanno capito che il mercato in questo momento voleva questo. Diciamolo francamente, non credo che sia un'operazione che non avrà successo. Chi comunque aveva una Barbie vorrà anche le altre Barbie, ne vorrà tre subito, vorrà quella piccola, quella alta e quella un po' grassoccia. Quindi triplicano la possibilità. Il mercato forse era saturo di Barbie comunque, tutto uguali. Sì. E comunque infatti dico, io alla fine mi sono riscoperta una creatrice di Barbie viventi, perché io facendo insegno danza, no? Per cui magari cerco di effettivamente poi alla fine di far risultare tutti un pochino simili e un po' tutte comunque ugualmente belle, piacevoli, anche se intelligenti. Lei barbizza le sue allieve, cioè le allena alla sbarra in maniera ferrea finché non assomigliano a Barbie, cioè diventano slanciate. No, io insegno moderno, no? Nel senso che, no, ma sì, ma nella loro differenza, nel senso che si può essere una bella ragazza e poi magari diventare da grandi non una ballerina, ma un medico, un così. Certo. Nel senso che non necessariamente una Barbie deve essere stupida. Se tutte le studentesse ecco, di danza diventassero rituale, non basterebbero i teatri oggi, è chiaro che non è così. Grazie, Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. No, io volevo dire che in effetti comunque lo stereotipo della Barbie fa sognare, cioè questo sicuramente, anche lo vedo anche nelle mie due figlie, io ho 39 anni, ho due figlie, una di 10 e una di 12, che comunque ci giocano ancora insieme, è un sogno. Ma lei come giocava con la Barbie a suo tempo? Ma io sfortunatamente allora ero figlia unica, quindi ci giocavo un po' da sola. Poi c'era stato un momento in cui ci giocavo col vicino di casa che aveva il big gym. E quindi si interagiva anche così. Cioè, e che tipo di gioco facevate con la Barbie e il big gym? Li facevamo baciare, li facevamo sposare. Cioè, li accoppiavate? Fin lì no, però fino al bacio ci si arrivava, eravamo piccoli. È bello perché in effetti il vero... La vera antitesi alternativa a Ken era Big Jim. Su Ken ci si giocava, ma come nel film Toy Story 3, alla fine Ken si vestiva con gli stessi vestiti della Barbie, capitava. In realtà quando Barbie la togliersi lo sfizio di un vero maschio, andava a Big Jim a cercare, non c'era alternativa. Ken era più un amico con cui ci si scambiavano i trucchi, era quello il fatto. Comunque ci mandi la foto anche lei, melog@radio24.it. Abbiamo bisogno di questo campione antropologico. Monica. Sì, buongiorno, volevo portare la mia testimonianza. Io ho 57 anni, quindi ai miei tempi quando ne avevi una di Barbie era una. Era quella, compravano altre. E io abitavo in questo condominio dove al piano terreno praticamente stavo vivo, e all'ultimo piano abitava questo mio amico carissimo, fidanzatino, che aveva il big gym. E quindi noi insieme chiaramente giocavamo con la Barbie. E quindi diciamo emulavate il vostro idilliaco rapporto di bambini fidanzati accoppiando ferocemente Barbie Big Jim. Abbiamo scoperto questa mattina che in realtà Big Jim era il vero rovina famiglie nella felice famigliola della Barbie. Arrivederci, alla prossima, forse ci vedremo tutti insieme nella notte delle Barbie viventi.